Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Alle 17:07 minuti inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana e siamo in diretta come ogni anno da Cernobbio, Villa d'Este, per la prima giornata di lavoro del workshop Ambrosetti, che appunto come ogni anno apre, diciamo, la stagione dell'economia e della finanza, al ritorno dall'estate. Quest'anno uno slittamento di una settimana, ma non è questa chiaramente la notizia che oggi molto si è commentato sia la situazione politica italiana che anche le dichiarazioni rese da Mario Draghi ieri sul G20, ossia i tassi della Banca Centrale Europea resteranno bassi a lungo termine e le attese che dal G20 arrivi anche misure concrete per la crescita e per il lavoro. Numerosi relatori già presenti o comunque attesi: Christine Lagarde arriverà, direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Joaquín Almunia, commissario alla concorrenza europea, Jean-Claude Trichet, ex presidente della Banca Centrale Europea, Herman Van Rompuy, presidente del Consiglio Europeo. Parteciperanno anche il ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni, quello all'interno Angelino Alfano e anche quello dello sviluppo economico Flavio Zanonato. Presente il governo in forza, visto che vi sarà anche il ministro del Lavoro Enrico Giovannini, quello della Salute Beatrice Lorenzin. Tra i manager, tutti i vertici delle banche italiane qui presenti, alcuni li abbiamo già raggiunti oggi e intervistati. E arriveranno anche il numero uno di Eni, Paolo Scaroni. Sono già arrivati invece il numero uno sia di Intesa San Paolo che di Unicredit. Con loro abbiamo parlato anche e soprattutto di scenario economico del paese, ma anche di tenuta del sistema creditizio, del sistema bancario italiano. Partiamo però dalla borsa, che guadagna lo 0,80% in questo momento, Parigi più 0,70%. Mentre Francoforte guadagna lo 0,20%, gli Stati Uniti lo 0,12%. Per quello che riguarda i titoli, molto forte oggi Enel più 4,90% e anche Enel Green Power più 2,60%. Bene anche Mediolanum più 2,50%, Buzzi Unicem più 2,33%. Su Enel chiaramente le voci di cessione di asset in Russia per un valore di 2 miliardi andrebbero ad abbattere il debito e questo è il motivo per cui sostanzialmente il titolo sale. Chi non sale oggi invece in borsa è Autogrill meno 2,22%, Salvatore Ferragamo meno 1,40%, Ubibanca meno 0,50% come Luxottica. Il numero per i vostri sms resta 349-238-6666 e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Chiaramente ci collegheremo anche con San Pietroburgo, perché continua un G20 che sarebbe dovuto essere tutto dedicato ai temi di politica monetaria, di politiche fiscali, all'economia, alla tassazione. In realtà si è diviso a metà, parte riguarda appunto l'economia, la finanza e il fisco, l'armonizzazione fiscale europea, ma la grande fetta riguarda chiaramente la politica estera e quindi la posizione americana e russa sull'attacco alla Siria e anche le tensioni e le frizioni che abbiamo visto in queste prime battute. Dicevo però i numeri 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook e adesso come sempre le notizie in breve. Per quello che riguarda le materie prime, oro, rimbalzano sia oro che petrolio oggi, l'oro a 1387 dollari, il petrolio di nuovo vicino ai 110 dollari al barile, in rialzo di quasi un punto per percentuale. Il G20, ne parleremo nella seconda ora del programma, comunque nel comunicato del G20 i leader mondiali nel comunicato finale hanno scritto che gli ultimi 5 anni sono stati fondamentali per affrontare la crisi finanziaria e rimettere l'economia mondiale sulla strada giusta. Il lavoro però non è finito e resta essenziale concentrare i nostri sforzi per un'uscita definitiva dalla crisi più lunga, per chi non se ne fosse accorto, della storia Moderna e poi il comunicato finale: le banche centrali devono guardare alla ripresa, quindi tenere i tassi ancora bassi e accomodanti. L'Italia ha preso un impegno nell'ambito del G20, un insieme di impegni, tra cui quello di ridurre il cuneo fiscale, quindi la tassazione sul lavoratore dipendente, e anche pagare fino in fondo, aggiungo io, i debiti della pubblica amministrazione. Devo dire che, come raccontavamo due giorni fa, su 15 miliardi stanziati dallo Stato centrale agli enti locali, già 7 miliardi e mezzo sono stati erogati come pagamenti. Non è ancora sufficiente, visto che ce ne sono oltre 100, ma è già un inizio. E il Premier Letta ha messo in guardia oggi da San Pietroburgo: anche per l'Italia c'è il rischio di una ripresa senza occupazione. Questo dopo l'incontro dei leader con parti sociali e imprese. Ci possa essere quella che in America si chiama jobless recovery, cioè l'economia torna a ripartire ma con numeri più bassi di occupati, il che chiaramente sarebbe una vittoria di Pirro, una vittoria parziale. Il tasso di disoccupazione invece negli Stati Uniti, a dimostrazione che gli Stati Uniti, con politiche accomodanti che per carità hanno fatto imbarcare molto deficit, continuano a stampare 80 miliardi di dollari al mese, però questo è servito a far uscire gli Stati Uniti, anche questo è servito a far uscire gli Stati Uniti dalla recessione. E infatti il dato di oggi segnala che la disoccupazione americana è scesa ai livelli più bassi dal dicembre del 2008, e quindi da quando sostanzialmente con Lehman Brothers, che è di ottobre, è scoppiata a tutti gli effetti la crisi finanziaria. Dal 7,4% di luglio la disoccupazione americana è scesa al 7,3%. Brutte notizie invece per la Grecia, perché secondo il Fondo Monetario Internazionale la Grecia avrà bisogno fra il 2015 e il 2020 di altri 47 miliardi di euro, lo dice il Fondo Monetario Internazionale. Secondo sempre il Fondo Monetario serviranno solo per il 2015 alla Grecia 14 miliardi e mezzo di euro, a fronte di una mancanza netta di 6 miliardi e mezzo di euro. Per il 2016 sempre la stima del Fondo Monetario è di una Grecia che avrà bisogno di altri 8 miliardi di euro, ma in questo caso il finanziamento sarà completamente coperto da Atene. E anche i greci ricchi, sappiamo che la Grecia, grazie al suo tasso di evasione fiscale che batte anche quella italiana, era un paese molto molto diseguale nella distribuzione del reddito, ma anche i greci ricchi sentono la crisi economica. Gli ultimi due anni infatti praticamente la maggior parte delle so che la notizia può far sorridere con i problemi che ha la Grecia, ma la maggior parte dei Lamborghini, delle Ferrari presenti in Grecia sono state vendute e mandate via cargo aereo negli Emirati Arabi, a Dubai, a Singapore e a Tokyo. Per chi volesse saperlo quanto costa trasportare una Ferrari con un Boeing con un cargo, costa 10.000 euro. Fanno segni tecnici, non è nemmeno tanto. No, il problema infatti non è avere 10.000 euro per il trasporto, è avere la Ferrari o la Lamborghini. Comunque, Germania invece, dato inaspettato oggi sull'export a luglio, meno 1,1%, tutti gli analisti si attendevano un altro rialzo dell'export tedesco, almeno vicino al punto percentuale, e anche la produzione industriale in Germania è calata più del previsto, a segnalare che c'è stato un rallentamento in Germania netto a luglio, meno 1,7%, gli analisti prevedevano un mezzo punto percentuale di calo. L'Italia, allora lo spread oggi è a 255 punti base, il rendimento italiano è al 4,5% del BTP a 10 anni. Per quello che riguarda il commercio estero, l'Istat ha segnalato oggi un export nel mese di luglio in calo del 2% sul mese precedente per l'export fuori dall'Unione Europea. Le importazioni hanno fatto un più 1,6%. Se però si guarda anno su anno, e quindi rispetto a luglio di un anno fa, l'export italiano continua a essere positivo, più 5%, e invece le importazioni calano del 2%. La cassa integrazione, se ne sono occupati anche i nostri GR. Il dato relativo ad agosto, ora l'INPS fa notare che ad agosto il dato di agosto è meno significativo in quanto risente della chiusura delle fabbriche, del rallentamento dell'attività, però ad agosto la cassa integrazione ha fatto un più 12% per un totale di 75 milioni di ore. Quello che fa obiettivamente impressione è il numero di domande di disoccupazione, domande di indennità, chiaramente di disoccupazione e mobilità arrivate all'INPS nei primi 7 mesi del 2013. Sono praticamente il 20% in più rispetto ai primi 7 mesi del 2012, dove già non si navigava nell'oro, alla dimostrazione della frenata iniziata, diciamo, a metà del 2012 in questo paese e è arrivata in maniera molto virulenta a inizio del 2013. Più 20%, ripeto, le domande di indennità di disoccupazione e mobilità che hanno toccato quota 1.100.000. E a questo proposito la Fiat ha comunicato ai sindacati e alla Regione Piemonte la richiesta di prorogare di un altro anno la cassa integrazione straordinaria per la riorganizzazione aziendale a Mirafiori. Il provvedimento interesserà 5.320 lavoratori dal 1 ottobre al 2013 al 28 settembre 2014. Adesso la Regione dovrà convocare un incontro con Fiat e sindacati per un esame congiunto, appunto, relativo alla richiesta di cassa integrazione. E sempre in tema di imprese in difficoltà, a Fabriano è ripresa la mobilitazione contro il piano di esuberi annunciato dalla Indesit Company, 1.425, nuove mobilitazioni, 2 ore di sciopero oggi e nuove mobilitazioni per lunedì 10 e martedì 11 settembre, quando avverrà l'incontro fra il Ministero e la Regione Marche, appunto sulla vertenza Indesit. La Guardia di Finanza di Taranto invece ha eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare, 4 in carcere e 1 ai domiciliari, nei confronti di altrettanti soggetti che, secondo le Fiamme Gialle, facevano parte di una struttura ombra della famiglia Riva, che agiva all'interno dell'ILVA in base alle direttive della proprietà, pur non essendo inquadrata nell'organigramma dell'azienda. E adesso una vicenda che riguarda Fondiaria Sai, è sempre un problema di opportunità nella vita, non c'è nessun reato, però insomma Marco Cardia, che è figlio di Lamberto Cardia, ossia colui il quale è stato presidente della Consob per 7 anni, insomma la Consob vigilava anche sul titolo Fondiaria Sai, visto che era quotato in borsa, evidentemente non si è accorto di alcune cose. Marco Cardia, dicevo, quindi figlio di Lamberto Cardia, ha ricoperto la carica fino a novembre 2012 di membro esterno nell'organismo di vigilanza di Fondiaria Sai. Ripeto, non c'è nessun reato, è solo un problema di opportunità, cioè se il figlio del presidente della Consob debba lavorare come consulente per una società il cui padre deve vigilare. Tutto qui. Anche perché l'incarico non era un incarico da poco conto, per questo lo studio Cardia si occupava del recupero dei premi assicurativi insoluti dell'attività di difesa in giudizio di Fondiaria Sai, e per questi compiti ha percepito 2 milioni e mezzo di euro, di cui 1 milione 800 mila euro per l'attività di difesa di Fondiaria Sai nella causa avviata da alcuni piccoli azionisti. Ora insomma, che tuo figlio difenda Fondiaria Sai contro dei piccoli azionisti, tu che sei presidente della Consob, a mio avviso, se ha ancora un senso parlare di questo paese di opportunità, di così allure, vogliamo essere alti, a mio avviso non è il massimo della vita, come dicevamo anche dell'allora presidente dell'autorità di vigilanza poi sciolta nell'ISVAP nei confronti dell'assicurazione, il cui figlio aveva lavorato sempre in Fondiaria Sai. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Partiamo con il primo tema, gli scenari economici e soprattutto quello che sta emergendo da questa prima giornata di lavori qui a Cernobbio, a Villa d'Este, per il workshop Ambrosetti. Come ogni anno qui al workshop Ambrosetti, l'agenzia del gruppo Sole 24 Ore Radio Core organizza e realizza un sondaggio tra gli addetti ai lavori sulle prospettive dei mercati, dell'economia e della finanza e sui fattori in grado di condizionarli. Sondaggi in cui viene chiesto in primo luogo quali sono gli scenari che gli operatori vedono più probabili e poi anche quali variabili potrebbero intervenire. Ce lo racconta e l'abbiamo sintetizzato in questa scheda. Prudentemente ottimisti. Nonostante i rischi e le incognite non manchino, si chiamino stabilità politica, elezioni tedesche o crisi siriana, i 308 partecipanti al sondaggio realizzato dall'agenzia stampa Radio Core, Il Sole 24 Ore e Assium Forex mantengono un giudizio moderatamente positivo sulle prospettive dei mercati da qui a fine anno. Tra gli intervistati che hanno voluto esprimere una previsione sulle borse europee, il 23% si attende un rialzo nei prossimi mesi, il 16% punta invece su listini stabili, mentre solo il 12% scommette su un ribasso. Ancora più favorevoli le prospettive per il mercato obbligazionario, atteso in crescita dal 23% degli intervistati, stabile per un altro 19% e in calo appena per il 7%. Una buona parte del merito di questa positiva fase dei mercati viene attribuita al presidente della BCE Mario Draghi, a cui i protagonisti del sondaggio riservano quasi un plebiscito. L'operato di Francoforte viene infatti giudicato ottimo nel 34% dei casi e buono in un altro 49%. Il 14% lo ritiene comunque sufficiente, mentre i giudizi negativi sono appena al 3%. Quanto alla situazione più specificatamente italiana, la possibilità di una crisi politica viene considerata il principale fattore di rischio per le prospettive dell'economia e dei mercati dal 20% degli intervistati. Più che la caduta del governo, si teme la situazione di ingovernabilità che potrebbe emergere in caso di nuove elezioni tenute con l'attuale legge elettorale. Un altro 22% teme invece soprattutto un nuovo possibile abbassamento di rating sul paese, che porterebbe l'Italia vicino o al di sotto del livello investment grade. C'è forte attesa anche per le elezioni tedesche del prossimo 22 settembre, che vengono indicate come il principale fattore di turbolenza da un altro 22% del panel. Stando agli ultimi sondaggi, la conferma di Angela Merkel nel ruolo di cancelliere pare più che probabile, ma permangono margini di incertezza sulla composizione e forza della maggioranza. Quindi variabili di politica monetaria da un lato, tassi, nonostante le rassicurazioni di Mario Draghi, ma anche e soprattutto per il nostro paese la variabile politica. E poi il credito. Si è molto parlato in questa prima giornata di lavori di credito, di non tanto tenuta del sistema bancario italiano, che nessuno mette in discussione, ma futuro del credito e del sistema creditizio italiano. Al di là dei casi di cronaca, li abbiamo raccontati, Banca Marche, Cassa Risparmio di Genova, ma in realtà appunto peggioramento, deterioramento, come dicono i banchieri, del credito oppure no, e soprattutto le sofferenze e gli incagli. Allora, in mattinata ne abbiamo parlato subito con i due esponenti, tra i principali delle banche italiane. Il nostro Simone Spezia ha infatti raggiunto Federico Ghizzoni, amministratore delegato del gruppo Unicredit, sempre appunto sul doppio binario di questa giornata: situazione e incertezze che derivano dalla situazione politica, ma anche qualità del mondo, qualità del credito bancario. Certamente genererebbe confusione, instabilità, senso dell'urgenza di fare le cose non sarebbe più presente, quindi ritarderebbe quantomeno una ripresa che è sempre dietro l'angolo, per cui per me è veramente una delle forse l'aspetto più negativo, il rischio maggiore che stiamo correndo in questo momento. L'impatto sui mercati per quanto riguarda i nostri titoli di Stato può essere forte, secondo lei? Sui titoli di Stato, diciamo, il mercato comunque sconta il fatto che siamo un'economia all'interno di un sistema europeo, sconta il fatto che c'è comunque la rete di protezione della Banca Centrale Europea, quindi volatilità sì, ma non drammatica. Quello che invece sarebbe drammatico è proprio la ripartenza e la ripresa economica, che è quello che oggi invece è importante. Ecco, a proposito di ripresa e di andamento dell'economia, qualche segnale di allentamento di stretta del credito lo stiamo vedendo in questi giorni. Lei è una delle persone che più energicamente, già dai mesi scorsi a dire il vero, ha detto: occhio che tanto, come prima non si ritorna, insomma, la concessione del credito come si dava prima non si ritorna. E che cosa intende e quali sono le prospettive a questo punto? Perché noi, come sa meglio di me, siamo un paese che sul credito bancario si appoggia in maniera molto più forte che in altre economie comparabili con la nostra. Quando intendevo dire non si torna ai volumi di qualche anno fa, la verità, ovvero sia le banche per una serie di limitazioni anche regolamentari, sia sul capitale che sulla liquidità, sul cosiddetto leverage, avranno un potenziale di credito inferiore. Questo non vuol dire che le banche non possano portare comunque liquidità all'economia. Noi di Unicredit abbiamo fatto un cambiamento profondo nella nostra organizzazione, siamo oggi la seconda banca europea per quanto riguarda il capital market, quindi emissione di bond per clienti corporate, per aziende. Anche quest'anno, facendo alcune statistiche, ho verificato proprio ieri per coincidenza, quello che noi abbiamo perso in termini di volumi sulla fascia delle medio-alte aziende, in realtà l'abbiamo sostituito con l'emissione di corporate bond. Quindi l'importante è attivare ed essere forti, bravi nell'attivare attività alternative al credito tradizionale. Poi sul credito tradizionale in realtà credo che la caduta che c'è stata si stia attenuando, noi stiamo notando maggiore domanda sia da parte delle aziende che da parte dei privati, vedersi i mutui in particolare, e anche, come posso dire, l'approccio della banca è cambiato. Oggi siamo sul mercato delle nostre filiali proprio con l'obiettivo di aumentare i volumi del credito, quindi spero che porterà risultati. Il fatto che aumenti la domanda è un buon segnale, perché è un segnale comunque di fiducia e di fiducia nel futuro, evidentemente, insomma. Sì, certo, è ovviamente una domanda ancora bassa rispetto al 3, 4, 5 anni fa, però è in ripresa rispetto alla prima parte dell'anno, quindi mi auguro sia l'inizio di un flusso di richieste sempre maggiori. Beh, molto chiaro già nell'intervista, ma anche in queste dichiarazioni, Federico Ghizzoni, numero uno di Unicredit, il credito e il modo di concedere credito non torneranno per un bel po' di tempo, diciamo noi, ai livelli precedenti. Però sul tema bancario non c'è solo la qualità del credito, è inutile girarci attorno, si potrà tornare a erogare un po' più di credito, ma ripeto, non nel modo e con le agevolazioni precedenti. Però c'è un altro tema che emerge, ed è quello dell'eventuale consolidamento bancario. Cosa vuol dire consolidamento bancario? Vuol dire se le banche italiane, se nel sistema bancario italiano possa o non possa avvenire un nuovo ciclo, un nuovo giro di fusioni, acquisizioni. Ecco, non è in agenda, secondo il numero di Monte dei Paschi di Siena, Fabrizio Viola, che però non esclude possibili fusioni nel settore, perché vede alcuni margini, soprattutto per banche, diciamo, di dimensioni medie più che di dimensioni grandi. Sentiamolo sempre al microfono del nostro Simone Spezia, proprio sull'ipotesi di consolidamento. Dopo diversi anni in cui le banche si sono impegnate a mettere ordine a casa propria con interventi sull'efficienza operativa, il prossimo passo sarà probabilmente un nuovo giro di consolidamento, anche se non è facile prevedere quando e chi coinvolgerà. Ma noi, la nostra strategia, l'abbiamo dichiarata in più di un'occasione, è quella di creare condizioni per ritornare a essere una banca efficiente che sta sul mercato bene. D'altro canto abbiamo una dimensione che ci consente di farlo a condizione che si facciano le attività che abbiamo pianificato. Quindi francamente non è in agenda un ragionamento sul consolidamento. Senta, qualche segnale di allentamento di stretta del credito lo stiamo vedendo. Molti banchieri continuano a dire però, guardate che come prima non tornerà, non ci sono storie. Lei come la vede? Le banche italiane hanno da gestire un equilibrio sul piano della liquidità e sul piano del capitale, quindi come tali non possiamo pensare di un ritorno al passato in grande in grande stile. Credo che il lavoro che si sta facendo su entrambi i fronti darà un po' più di ossigeno, anche se non dobbiamo mai dimenticare che continuiamo a essere un sistema che presta molto più di quello che raccoglie, e di conseguenza per poter supportare l'economia bisogna cercare formule innovative, quali ad esempio quella dei mini bond o del rilancio delle cartolarizzazioni. Questo è evidente. È stato messo in evidenza nei mesi scorsi il problema del livello di sofferenza del sistema bancario italiano. Si è ipotizzata più di una volta una bad bank. Lei come la vedrebbe una cosa di questo genere? Mi sembra che tutte le volte separate di bad bank si sia semplificato molto il problema, perché poi quando si parla di bad bank bisogna trovare anche chi sottoscrive le azioni di questa bad bank. Quindi credo che al momento dobbiamo lavorare tutti, ciascuna banca, per rendere più efficiente e efficace l'attività di gestione delle sofferenze e soprattutto delle prepatologie, perché poi le sofferenze si calano anche riducendo il flusso di incagli che arrivano. Sulla bad bank è un ragionamento che si può fare, ma credo che sia un tema che coinvolge non solo il sistema bancario ma altri soggetti in Italia, perché per definizione spostare da un bilancio individuale a un altro bilancio le sofferenze non si risolve, bisogna vedere chi ci mette il capitale per coprirle. Beh, innegabile che ipotizzare una bad bank, cioè una banca in cui confluiscono tutte le sofferenze, ossia i crediti che le banche non riescono più a riavere dai soggetti a cui li hanno concessi, letta così diventa solo gioco delle tre carte, perché poi il capitale per coprire queste sofferenze andrebbe comunque messo. Chiaro anche il ragionamento di Fabrizio Viola, numero uno del Monte dei Paschi di Siena, sul consolidamento bancario. La borsa nel frattempo ha chiuso, per quello che riguarda Milano, con un rialzo dell'1,21%, è la migliore oggi Milano tra le borse europee di maggior spessore, grazie anche e soprattutto ad Enel, più 4,65%, Enel Green Power più 3,11%. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni qui da Villa d'Este a Cernobbio per la prima giornata dei lavori del workshop Ambrosetti, e dopo aver ascoltato le interviste realizzate con Federico Ghizzoni, numero uno di Unicredit, e Fabrizio Viola, numero uno del Monte dei Paschi di Siena, adesso andiamo a commentare la giornata di borsa e poi riprendiamo con un ciclo di interviste di vari ospiti qui a Cernobbio nella prima giornata appunto di lavori. Borsa più 1,21% oggi, quindi nel finale della settimana buono il rialzo di Milano, buono anche perché se Parigi guadagna l'1%, Francoforte si accontenta di mezzo punto percentuale, l'America guadagna lo 0,30%, l'euro su dollaro per inciso a quota 1,31,60, oggi poco mossi molti settori, a partire da quello bancario con l'eccezione di Mediobanca più 1,92% e anche della Pop Milano più 1,50%, Intesa più 1,40%, Unicredit più 1,30% e in negativo Autogrill meno 2,13%, Ferragamo meno 1,20%, ma la notizia di oggi l'ha fatta Enel più 4,65%, il miglior titolo del listino. Allora ci colleghiamo subito con Ceo Condina, Radio Corio, Sole 24 Ore, buonasera Ceo. Ciao, buonasera a tutti. Dunque Enel più 4,60%, in realtà oggi è andato bene in tutta Europa il cosiddetto comparto delle utilities, quindi sì, chi fornisce servizi. Sì. Anche in Germania abbiamo visto RWE, E.ON mettere a segno dei rialzi molto corposi per quanto riguarda Enel, e poi la controllata Enel Green Power, che poi è di fatto il secondo titolo come performance. Sì, più 3,11. Più 3,11%, insomma, tra gli operatori e anche tra le case d'affari. Oggi nel dettaglio c'è un report di UBS, c'è la sensazione che il titolo sia leggermente sottovalutato. Ricordiamo che Enel anche nelle ultime sedute, in particolare dopo il fatto che il nostro premier Enrico Letta ha ribadito che verrà avviato in autunno un roadshow sulle privatizzazioni, Enel ha perso molto terreno, quindi un'azione vicina ai minimi storici, e oggi un rimbalzo molto forte, considerata l'alta capitalizzazione del titolo, è un rialzo ancora più eccezionale, più 4,6%. Nel dettaglio, per quanto riguarda il report della casa svizzera UBS, addirittura si sottolinea che nel tratta sconto di un terzo rispetto ai competitor europei. Ancora, devo dire che c'erano anche le voci di una possibile cessione di asset, quindi di alcune partecipazioni di Enel in Russia. Assolutamente. Si ipotizzava un valore di 2 miliardi, però il gruppo ha smentito, se ho ben visto. Sì, diciamo che comunque il dossier delle cessioni è sempre nell'agenda del gruppo, che anche nel proprio business plan ha messo appunto in agenda una serie di dismissioni necessarie per abbattere il debito, che è un problema per Enel così come per le principali utility europee, quindi per migliorare diciamo l'EBIT della società. Ancora tra i titoli Ansaldo STS di nuovo forte, più 2,81%. Ancora immagino sulle cessioni, abbiamo parlato a lungo 2 giorni fa sull'ipotesi di cessione di Ansaldo Energia. Eh sì, e poi qui ci sono anche le dichiarazioni di De Poli, di Sandro De Poli, che è il presidente amministratore delegato di General Electric Italia, dichiarazioni fatte proprio da Cernobbio. De Poli ha sottolineato che nel caso Ansaldo STS fosse nuovamente messa sul mercato, loro sarebbero di nuovo interessati, quindi sì. Insomma, il titolo ha subito reagito in borsa. Mediolanum più 2,80%, Buzzi Unicem anch'essa più 2,40% e STMicroelectronics più 1,90%. Tra chi invece scende c'è Autogrill meno 2,13% su una notizia di mercato. E qui siamo ancora sulla scia della notizia di alcuni giorni fa del fatto che Autogrill ha perso la gara per i duty free dell'aeroporto di San Paolo, si è aggiudicata una gara ieri per l'aeroporto di San Pietroburgo, ma le dimensioni sono leggermente diverse, quindi tra gli operatori c'è ancora un pochino di pessimismo appunto sul titolo. Poi Salvatore Ferragamo meno 1,20%, Mediaset meno 1%. Che è successo a Telecom oggi? L'abbiamo vista molto altalenante. Sì, adesso più 0,33% ha chiuso, ma era arrivata a perdere anche l'1,5%, quasi fisiologico per un titolo che aveva guadagnato più del 20% nelle ultime sedute. Qui viviamo tutti, insomma, gli operatori più che altro vivono in attesa del CDA del 19 settembre e ci sono vari scenari sul tavolo, quello di un aumento riservato magari a un operatore estero oppure quello di una fusione con Telefonica. Oggi gli operatori appunto a fronte di tutti questi scenari si sono presi, diciamo, una giornata di pausa sul titolo. Tra l'altro da questo punto di vista, poi lo ascolteremo, abbiamo raggiunto anche il numero uno di Telecom, Franco Bernabè, il quale ha detto, tanto è già uscito su agenzia, ve lo posso tranquillamente anticipare, che prima vi sarà l'esame del progetto industriale per Telecom Italia e poi si valuterà l'ipotesi o no di far entrare nuovi soci, di cambiare l'assetto societario. E ha poi detto, ma lo ascolteremo, una battuta molto emblematica: noi non siamo comunque oggetto di scambio. Questo riferito, diciamo, al risico nelle telecomunicazioni, di cui molto ci siamo occupati in questi giorni, dopo l'operazione Vodafone Verizon, ma anche e soprattutto dopo l'operazione Microsoft su Nokia. Ancora devo dire che il riferimento a non siamo oggetto di scambio, perché la Telco, che è l'azionista di riferimento del gruppo Telecom Italia, è a sua volta come socio di maggioranza Telefonica spagnola, e da molte parti si è ipotizzato, diciamo, di varie possibili partite di giro che tra l'altro vedrebbero al centro anche Team Brasil. Andiamo avanti con invece i migliori e peggiori, perché abbiamo RWE più 7,68, SET pagine gialle più 6,30 sul risparmio, E.ON più 5,98, Molecular Medicine più 5,85%. Qui c'è notizia importante su pochi titoli che abbiamo su biomedicale, prego. C'è stato il via libera da parte dell'Ufficio Europeo Brevetti appunto a un brevetto che era stato presentato da Molmed su un biofarmaco antitumorale, quindi insomma è un nuovo canale di investimento per il gruppo che potrebbe dimostrarsi redditizio nei prossimi trimestri. Il fronte opposto invece vede SEAT, pagine gialle, sulle ordinarie perdere il 5,90%, Industria e Innovazione meno 5,70%, PMS meno 4,30%, Banca Cassa del Risparmio di Genova meno 3% e Arena meno 3% secco. Grazie, buon fine settimana ai colleghi di Radio Cori Sole 24 Ore. Adesso andiamo con il traffico e poi torniamo a ragionare delle prospettive, questa volta dal punto di vista di chi gestisce i fondi di private equity, i fondi di investimento di carattere azionario o anche obbligazionario esteri sull'Italia. Diretta con Sebastiano Barisoni da Cernobbio, dal workshop Ambrosetti. Dicevamo il doppio binario su cui si è svolta questa prima giornata di lavori: da un lato le tensioni chiaramente anche internazionali, ma soprattutto i dubbi, gli interrogativi sulle prossime azioni di politica monetaria, anche se appunto le dichiarazioni di ieri di Mario Draghi hanno rassicurato, almeno per un po', il fronte europeo. Draghi ha detto che i tassi resteranno accomodanti, cioè bassi per lungo tempo, ma c'è sempre l'ipotesi di quando l'America tornerà a alzare questi tassi di interesse. L'altro binario invece molto italiano, tensioni politiche e tenuta o rischio tenuta del governo Letta. Ci ha raggiunto nei nostri studi, proprio per ragionare anche di questo, Davide Serra, che è fondatore dell'Hedge Fund Algebris, quindi profondo conoscitore del nostro paese e anche che ha investito nel nostro paese. Serra, buonasera innanzitutto. Buonasera. Dal punto di vista, lei è stato nostro ospite in una precedente occasione, ma dal punto di vista dell'investitore istituzionale, lo spiego a tutti, colui che mette i soldi per quote di minoranza o di maggioranza di gruppi, non necessariamente sempre grandi, ma comunque di dimensioni medio-grandi, anche del nostro paese. Dal vostro punto di vista, in questo momento, nell'allocazione di quelle che sono le vostre disponibilità, è più importante, pesa di più la variabile, diciamo, internazionale, tasse, interesse, come reagirà la Banca Centrale Europea, cosa capiterà ai mercati e alle valute, o la variabile domestica, diciamo così, tenuta del governo Letta? Ma secondo me sull'Italia ciò che conta di più è la variabile domestica, perché il tema europeo tutto sommato è chiaro, nel senso i vari governi sanno quello che devono fare, l'AMF ha dato delle raccomandazioni, la Banca Centrale ha dato raccomandazioni, quindi ormai tutti sanno i compiti che bisogna fare. Il tema è quando si arriva a settembre, come si suol dire dopo le vacanze, è chi ha fatto i compiti e chi no. E qui all'interno uno può dire, se si vede i risultati di parte Irlanda, Spagna e Portogallo, avevano una lista ben dura, sono stati rimandati a settembre, alcuni quasi bocciati, sono fatti i loro compiti e stanno venendo fuori dalla crisi. Per ora in Italia, sfortunatamente, sino adesso si è ancora perso tempo di fatto, nel senso che grandi riforme non si sono riuscite a fare. C'è stato questo ricatto dell'IMU, se pensi che in Italia il PIL è 1.600 miliardi di euro, le tasse sono 800. E noi siamo stati a discutere per 3 mesi di 20 miliardi di tasse che è l'IMU. Cioè, se il problema... In realtà poi 4 miliardi perché riguardava, esatto, solo la prima casa. Però il problema sono 1.600 e noi stiamo a discutere di 4 su 1.600. Cioè se uno è fuori di testa, no? Cioè perlomeno ne parli mezz'ora, un'ora, ma non 3 mesi. E quindi il vero tema cos'è? È che ad oggi coloro che devono deploy capitale anche in Italia guardano in Italia dicendo: scusa, ma tu hai fatto i compiti? Hai fatto quello che devi fare? E quindi secondo me cosa sta succedendo? In una ripresa europea che avviene, vedo molto interesse su Francia, su Germania, in parte su Spagna, si vedono anche dei fondi private equity che stanno entrando, comprando l'immobiliare. Per ora sull'Italia tutti stanno alla finestra, perché? Perché non sanno il quadro in cui si giocherà. E continuano a dire faremo, si parla ancora della riforma elettorale, sono 20 anni che ne sento parlare, ormai la gente è stanca. Quindi diciamo la variabile di stabilità politica, ma soprattutto più che di stabilità, di capacità di riforme, è la variabile per voi più forte rispetto, diciamo, a una variabile di carattere macroeconomico o monetario. Da questo punto di vista è chiaro che, insomma, alcune riforme non siano nemmeno state messe in cantiere. A me quello che è molto sorpreso degli dati di Eurostat di mercoledì è stato vedere come paesi come il Portogallo sono ampiamente usciti dalla recessione, la Spagna ormai è, diciamo, con un meno 0,1 stagnante, è constatare questa differenza, questa Europa a macchia di leopardo, non più nemmeno nord-sud nelle capacità di ripresa. Eh sì, è una questione data, tutto sommato Portogallo è stato proprio bocciato, la Spagna rimandata col 3 in pagella, noi rimandati col 4,5. Allora, noi rimandati col 4,5, ma storicamente, diciamo, negli ultimi 30-40 anni eravamo tra i bravi, quindi cosa è successo? Chi è stato bocciato e rimandato col 4 ha studiato e ha fatto un sacco di riforme. quindi riforma del lavoro, riforma fiscale, facilitazione per l'imprenditoria, hanno iniziato a licenziare dipendenti pubblici, hanno abbassato fortemente gli stipendi, cioè hanno fatto tutto ciò che gli italiani sanno devono fare. Da noi in Italia tutti sanno quello che va fatto, nessuno lo vuol fare perché c'è questo blocco politico di lobby, di interessi particolari che non fa sì che lo status quo continui a facilitare, secondo me, le generazioni nate prima degli anni 60 e il debito se lo devono pagare chi è nato dagli anni 60 in poi. Sì, c'è chi potrebbe obiettare che la riforma del mercato del lavoro, la Fornero l'ha fatta, adesso Giovannini cerca di in qualche modo correggerla. Sul pubblico impiego invece sono d'accordo con lei, che pubblico impiego non si è fatto niente, non si è fatto nulla e non è nemmeno in cantiere. Anzi, scusi, pubblico impiego in Italia, il dipendente medio pubblico italiano, medio cosa vuol dire? Totale spesa pubblica per stipendi diviso numero di dipendenti medi pubblici, noi abbiamo un costo del dipendente pubblico del 15% superiore alla media europea. Ora, quando uno va a disaggregare questo calcolo, cosa vede? Che ci sono un sacco di capi, no? E di grandi boss che prendono stipendi altissimi e poi invece un sacco di persone, di dipendenti che lavorano alle poste piuttosto che all'istruzione, no? Che hanno salari bassissimi. Quindi il problema cos'è? Però la media è altissima. E anche qui problema di diseguaglianza sociale e intergenerazionale, perché io non ho mai visto un capo nel settore pubblico che abbia 30 anni, siamo tutti 60-70 anni. Quindi, vabbè, su questo penso che ci siano pochi dubbi. È importante ricordare appunto che la media è alta perché ci sono alti salari a livello dirigenziale, in realtà dirigenziale, poi, esatto, a livello di stipendi della pubblica amministrazione, inteso come forze armate piuttosto che forze dell'ordine, lì siamo al di sotto, siamo al di sotto della media, esatto, europea. Ecco il grosso discrimine. Voi invece, dal punto di vista dell'attività in senso stretto, che dove vi state muovendo? Noi abbiamo avuto un'intensa attività di shopping anche del lusso italiano in questi mesi, nel 2013. Se lei dovesse investire in Italia in questo momento, dove investirebbe? In Italia oggi io investirei nel credito di banche e assicurazioni, quindi investirei nei subordinati di Unicredito e Intese Generali, dove vengo pagato il 9% a 5 anni per avere fondamentalmente tier 1 e tier 2 di tre grandi aziende che, dato che sono tutto sommato ben gestite, risentono della crisi, ma al contempo hanno buone riserve. Secondo me, essendo a livello di credito, quindi soprattutto a livello azionario, non si prendono la volatilità dell'incertezza politica. Quindi obbligazioni delle banche? Esatto, sì. Quelle ibride però, ossia i subordinati, quelli che non sono, che sono subito sopra l'azionario. Chiaro, per cui investire nel credito bancario, diciamo, esatto, per far capire. Sì. Mentre sui singoli imprese manifatturiere o gruppi italiani? Ma noi facciamo solo finanziari. Quindi... No, ma dico questo al di là dell'attività vostra specifica. Al di là, sì, secondo me ci sono, esempio, come dal punto di vista settoriale, io secondo me investirei in tutto ciò dove l'Italia ha un vantaggio competitivo ancora. Quindi se uno mi dicesse facciamo una, come si dice, tipo l'Alcoa, ecco, no. Non possiamo competere materie prime nel fondere. Quindi nuovo lusso e punti di forza made in Italy? Sì, made in Italy, sì, continuerei. Sicuramente, esempio, secondo me c'è stata una bolla in tutto ciò che è l'energetico alternativo, non altro che sussidi statali. Fondamentalmente si prendevano soldi allo Stato, pagati attraverso la bolletta. Oggi gli italiani pagano il 15% in più nella bolletta Enel, perché qualche politico ha detto facciamo l'energetico alternativo e l'hanno fatto pagare agli altri, sono capace anch'io a farlo, e quella è chiaramente una bolla e non investirei lì. Dove investirei invece sarebbe il come dire, tutto ciò che è legato al Made in Italy, dove abbiamo un vantaggio competitivo, e investirei in real estate legato, cioè, al turismo, immobiliare legato al turismo, ossia in Italia ci sono un sacco di assets mal gestiti in location eccezionali, dove secondo me da qui a 3, 4, 5 anni il paese non avrà scelta che trasformarsi e vendere o dare in gestione a gruppi internazionali. Mm-hmm. Questo esempio l'ho già visto a Firenze, dove addirittura potrebbe essere la prima città dove il Four Seasons apre due alberghi. E in effetti sul settore turistico in Italia, dell'immobiliare, quindi dell'offerta, dell'hotelleria, chiamiamola come volete, ci sono ampi margini, anche perché purtroppo è un settore molto parcellizzato da noi, quindi, esatto, non lavora con catene internazionali con tutto ciò che ne consegue. Grazie. Una previsione sul mercato azionario me la dà però da qua a dicembre? Sì, guardi, noi siamo positivi su Giappone, positivi su Europa, neutri su Stati Uniti, negativi su emerging market, sui mercati in generale. non abbiamo esposizione di equity per ora in Sud Europa. Cioè non l'azionario sudeuropeo? No, perché è ancora troppo... Mentre in Sud Europa abbiamo parecchio credito. Obbligazioni. Grazie a David Serra, presidente fondatore del fondo di investimento Algebris. Grazie. Alle 18:07 riprende Focus Economia, con voi Sebastiano Barisoni, qui in diretta da Cernobbio, dalla prima giornata di lavoro del workshop Ambrosetti a Villa d'Est. Abbiamo ascoltato le interviste con Federico Ghizzoni, con Fabrizio Viola, quindi Unicredit, Monte dei Paschi, con Davide Serra, quindi fondo Algebris, raccontato la giornata di borsa, e sta terminando in sostanza la prima giornata di lavori. Ecco perché vorrei fare il punto con chi era dentro quelle sedute, che sono sedute a porte chiuse, quindi non accettano noi comuni mortali, ma solo chi ha deciso di partecipare o è stato invitato a questa edizione annuale del workshop Ambrosetti. Vorrei fare il punto su quello che è emerso quanto a preoccupazioni, mantenendo il doppio binario che stiamo utilizzando dall'inizio trasmissione, quindi preoccupazioni di carattere internazionale al di là della tensione siriana, stretta di politica monetaria, quindi aumento dei tassi di interesse della Banca Centrale Americana, la Federal Reserve. Mario Draghi invece ha rassicurato da San Pietroburgo su una Banca Centrale Europea che manterrà tassi accomodanti, tassi bassi ancora per lungo tempo, e dall'altro invece le preoccupazioni tutte di carattere domestico nazionale sulla tenuta del governo e comunque sulla situazione politica in Italia. Ne parliamo con Francesco Caio, che ci ha appena raggiunto nei nostri studi qui a Villa d'Este. Francesco Caio è amministratore delegato di Avio Aero, ma è stato anche ex amministratore delegato di Omnitel e di Cable and Wireless, e per il governo è diventato anche Mister Agenda Digitale. Qui dovrebbe aiutare il governo nell'implementare, nel realizzare finalmente una digitalizzazione del paese. Ingegnere, buonasera innanzitutto. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Ci racconta cosa vi siete detti dentro? Ma direi, nel contesto di un'Europa ancora in crisi, io ho percepito segnali di un cauto ottimismo. E devo dire che un avvenimento molto distante da qui, ma molto vicino a causa dei media, che è San Pietroburgo, è stato interessante. La prima frase detta dal presidente Obama quando ha fatto il riassunto dei loro lavori, ha detto: dopo 4 anni è la prima volta che si parla di crescita e di progettualità economica e non di come si deve proteggere dal prossimo meltdown. Dalla prossima crisi. Ecco, io penso che questo sia un po' il contesto cognitivo, mi lasci dire, di questi giorni a Cernobbio, a Bruxelles, dove ero ieri, a San Pietroburgo. E quindi c'è un cauto ottimismo, è quello che emergeva anche dal sondaggio che abbiamo fatto ascoltare di Radio Corriere Sole 24 Ore, che però riguarda, vede un'Europa uscire da questa recessione in ordine sparso, a macchia di leopardo. Abbiamo visto i dati di metà settimana di Eurostat, al di là della Germania e dei paesi del nord, anche il Portogallo ha avuto un buon dato sul PIL, la Spagna sta andando sostanzialmente in stagnazione, non più in recessione. Poi però c'è un'Italia che ancora invece avrà un 2013 difficile e un cauto e molto molto molto modesto PIL in aumento nel 2014. Le dico la mia preoccupazione, che sembra magari un po' paradossale: la crisi fa bene, perché la crisi concentra le menti e fa capire la necessità. Sì, bisogna avere le menti, però. Ma penso che ci sia una crescente consapevolezza della quantità enorme di lavoro che c'è ancora da fare. Qui mi riallaccio più a una sessione del pomeriggio dove si è parlato dei grandi investimenti in innovazione e delle condizioni fiscali, regolamentari, politiche necessarie all'innovazione. Un'innovazione che passa sicuramente da una creazione di posti di lavoro nuovi e da una, ahimè, diminuzione di quelli esistenti, ma che penso sia assolutamente pericoloso abbandonare, ipotizzando che questi primi segnali di crescita ci portino da soli fuori dalla crisi. Diciamola tutta, lei ha lavorato molto in gruppi anche all'estero, però è italiano, lei teme che qui, come si avvereranno i primi segnali di ripresa, vi sarà liberi tutti? Ci si rilasserà, questa è la mia preoccupazione. Laddove in tutti i settori industriali vedo il doppio binario della enorme opportunità legata all'innovazione, alla discontinuità e ahimè il pericolo di un'obsolescenza molto rapida. Non ci fermiamo, per l'amor di Dio. Ecco, su questo però immagino avete discusso, le sessioni politiche sono più domani e dopodomani, in cui sì, sarà presente mezzo governo, oltre che i vertici dell'Unione Europea, la direttrice del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde, però immagino che le nuove tensioni, comunque non se ne sono mai andate, sulla tenuta del governo Letta siano emerse nel vostro ragionamento sull'Italia. Ma in generale il fattore della stabilità politica è comunque visto da tutti come un fattore abilitante alla crescita. È chiaro che più tempo, più energie, più pensiero si dedicano a fare i conti che se avremo o meno un governo lunedì, martedì e mercoledì, diciamo, meno si può serenamente affrontare progetti di lungo periodo che sono quelli che servono al paese. E su questo veniamo anche a quello che serve al paese, perché poi vorrei chiudere con il risico a cui stiamo assistendo nel mondo delle telecomunicazioni, che ripeto, lei avendo fatto il numero uno di Omnitel prima e poi di Cable and Wireless dopo conosce molto bene. Però prima di questo vorrei fermarmi ancora un minuto sull'incarico che lei ha avuto dal governo di essere Mister Agenda Digitale. Allora, ci sono delle cose cicliche in questo paese, è almeno 5-6 anni che io sento parlare della digitalizzazione del paese, vedo i fondi tagliati per ogni manovra finanziaria come se si trattasse, diciamo, di eliminare i fondi sulla ricerca per il prossimo sbarco su Marte, non capendo che in realtà si tratta appunto di il digital divide, come si chiama in gergo, di rendere omogeneo questo paese nella connessione internet, la dico in maniera un po' brutale, ci sono parti del paese che viaggiano ancora, per usare un esempio, con la carrozza e altre che hanno invece le macchine a quattro tempi, e questo vuol dire poi non rendere competitive le imprese. Non è solo un problema di navigare su internet, sui social network, intendiamoci, un'impresa che ha una buona velocità accettabile di connessione è un'impresa che riesce a competere con i suoi concorrenti tedeschi, britannici, cinesi e brasiliani, e l'impresa che non ce l'ha sia sul fronte dell'offerta che sul fronte della domanda è azzoppata. L'esempio, a mio avviso, dei trasporti, chi andava ancora col Calessi quando c'erano già le macchine, potrebbe dare l'idea. Allora, lei che cosa ha in mente di fare, ma soprattutto le daranno i soldi? Io penso che i soldi ci sono già, il e tema dove? È come si spendono, perché se io guardo al bilancio dell'informatica nazionale, che ogni anno continua a investire a livello centrale e periferico, parliamo di miliardi. Quello che manca, e per essere trasparente, non manca solo in Italia, ne parlavo appunto ieri anche con la commissaria Kroes a livello europeo, è un po' un disegno, un'architettura di che cosa si vuol fare. Qui non è un'agenda digitale con un elenco di progetti digitali che ogni tanto mi sembra l'albero di Natale, è un percorso verso un'amministrazione dello Stato moderna e sostenibile per riallocare le risorse altrove. Ancora una volta, sorella crisi, perché qui aumenta la consapevolezza di questo percorso. Ovviamente lei solleva il tema della banda larga. Banda larga è un fattore abilitante e a maggior ragione abilitante quanto i governi in tutto il mondo stanno intraprendendo questo percorso. Allora, cosa ho intenzione di fare io? Ma quello che abbiamo deciso con il presidente Letta è quello di tentare una strada un po' più progettuale di lungo periodo, togliendo invece che aggiungendo progetti e individuando quelle due o tre direttrici che possono costruire le fondamenta di un'amministrazione digitale. Ce le vuole sintetizzare? Ma diciamo, innanzitutto ero confortato dalla sessione oggi pomeriggio dove ho sentito che anche l'India sta facendo partire un percorso di identità digitale. Allora, l'identità digitale significa avere certezza del cittadino e cittadina che si interagisce con lo Stato, con due benefici: una password unica per avere servizi a tutti, sì, ma anche la certezza dello Stato di non pagare le pensioni ai morti, cioè avere una più unificata descrizione digitale della popolazione, che è appunto requisito per attaccarci poi tanti servizi. L'anagrafe va in questa direzione, la fatturazione elettronica è un altro elemento che dà trasparenza e certezza, in modo tale che quando... E risparmi anche. E risparmi. Non... E risparmi. Ma questo tutta la digitalizzazione dà risparmio. Dopo il traffico vorrei sentire sull'ultimo tema e mi riferisco al risico delle telecomunicazioni, se tanto lei in questo momento è fuori dai giochi e può tranquillamente dirmi cosa succederà nel breve futuro, visto che abbiamo un gruppo come Vodafone che ha appena intascato una dote da 130 miliardi di euro, metà in azioni, metà no. Abbiamo visto Microsoft comprare la Nokia, abbiamo visto l'American Mobile di Carlos Slim rimuoversi e avere vari interessi, e quindi e c'è una possibile preda, anche se poi ascolteremo Franco Bernabea, ha smentito, che si chiama Telecom Italia. e 18 minuti, ultima parte della diretta di Focus Economia qui dal workshop Ambrosetti a Cernobbio. Allora, ingegner Francesco Caio, lei che è stato numero uno di Omnitel, numero uno di Cable & Wireless, mi dice che scenario vede nelle telecomunicazioni e se secondo lei Telecom sarà una delle prede più ambite? Telecomunicazioni hanno finito la fase 1 del loro sviluppo. 20 anni fa si partiva con le reti mobili in tutto il mondo, si dovevano costruire tante antenne e aprire tanti negozi. Non c'era nessuno che aveva il telefonino, avevamo le praterie davanti, i prezzi erano alti, e it was wonderful, si dice in Inghilterra. Oggi abbiamo più antenne di quelle che servono, telefoni si vendono a gogo anche in tabaccheria e la crescita è finita. La pressione arriva sui prezzi, il prodotto si è commoditizzato, non è nulla di nuovo, è successo nell'acciaio negli anni 70, è successo adesso nelle telecomunicazioni. In queste condizioni la leva per continuare a restare competitivi e a fare investimento è la razionalizzazione, si va verso il consolidamento. Però qui vediamo non solo un consolidamento tra gruppi telefonici, vediamo Microsoft comprare Nokia, comprare produttori, abbiamo visto c'è BlackBerry che potrebbe essere ceduta, cioè a me più che un consolidamento sembra un'integrazione tra software e hardware, quindi tra chi fa il telefonino, chi ci mette sopra le cose, chi ha il motore di ricerca. Sì, internet ha separato il mondo delle reti da quello dei servizi. Oggi, come lei ha visto, questa settimana Microsoft compra Nokia, peraltro secondo me due aziende un po' in difesa che cercano di abbracciarsi, sì, due debolezze, tra di loro, diciamo, ecco, rispetto a una Google che compra la Motorola, ma non c'era nessuna discussione con gli operatori sono fuori, devono adesso purtroppo gestire al meglio una commodity che loro hanno. Gli operatori vuol dire chi ha la rete? Chi ha la rete, il gestore di telecomunicazioni. Mentre il valore si è spostato su chi offre i servizi. Scusi, è chiaro che i numeri che abbiamo visto Vodafone e Verizon fanno tremare i polsi, ma Verizon e Vodafone, che pure valgono penso 150-180 miliardi di dollari, ecco, bisogna ricordare che Apple ne vale 440 e che Google sono 280. Per cui nel triangolo tra chi ha i contenuti, quindi le app, voglio far capire, sì, a tutti, chi produce il supporto, cioè produce i telefonini, gli smartphone, e chi ha la rete per mettere queste cose, per far sì che il telefonino sia collegato, le dice il vaso di coccio in questo momento è chi ha la rete, perché il valore aggiunto si è spostato in un'altra. Sono posizioni di rendita che vanno però rese profittevoli o di nuovo profittevoli attraverso una razionalizzazione. Cosa capiterà secondo lei a Telecom Italia? Bisogna chiederlo al management e agli azionisti. Io penso che Telecom Italia, parte di questo settore, dovrà giocare un ruolo nel consolidamento. L'abbiamo chiesto, l'ha fatto il nostro Simone Spezia, Franco Bernabè, chiedendogli appunto quali potrebbero essere le prossime mosse. Molto netto il giudizio di Franco Bernabè, che è il numero uno di Telecom Italia, ha detto prima questo mese è cruciale per sapere quale sarà il nuovo azionariato di Telecom Italia, quindi Telco, chi resterà dentro Telco, alcuni si sono già sfilati, Mediobanche, Generali, il ruolo degli spagnoli che sono azionista di riferimento, ma dicevo Bernabé ha detto prima il progetto industriale, poi penseremo ai soci e comunque Telecom non è un oggetto di scambio. Telecom Italia è una società di grandissimo rilievo per l'Italia, è una società fondamentale, è una società importantissima soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo dell'agenda digitale, lo sviluppo della modernizzazione del paese, e poi Telecom Italia è alla fine una delle prime 10 società di telecomunicazioni del mondo. Quindi qualsiasi cosa riguardi Telecom Italia va trattato con estrema attenzione, anche con estremo rispetto e soprattutto con estrema attenzione agli interessi di lungo periodo del paese. Io quando sono arrivato in Telecom Italia sono arrivato perché mi sentivo la missione di rilanciarla. Poi il mio arrivo in Telecom Italia è coinciso con la grande crisi che oggi, come ci dicevano qui i nostri esperti economisti, non è ancora finita. Siamo convissuti con la crisi negli ultimi 5-6 anni. Nonostante questo, Telecom Italia ha continuato a ridurre il debito e a migliorare il suo posizionamento. E quindi Telecom Italia oggi è una società industrialmente molto forte e con un potenziale straordinario. va rilanciata tenendo conto delle circostanze, tenendo conto del fatto che la crisi c'è stata, che c'è stata la guerra dei prezzi, che ci sono state varie cose che hanno impedito di realizzare poi quegli obiettivi che tutti avremmo voluto realizzare di grande crescita. Ma è chiaro che in un paese in cui il PIL è sceso negli ultimi 5 anni di oltre il 10%, il reddito pro capite è sceso, c'è stato e c'è una continua aumento del costo del denaro e scarsa anche disponibilità del denaro, no? Le soluzioni vanno adattate alle circostanze. Queste circostanze io credo che debbano prima di tutto guardare al futuro, al rafforzamento di Telecom Italia e al ruolo di Telecom Italia per il Paese. Poi la soluzione... Mi scusi, il ragionamento sulla strategicità di Telecom Italia fa pensare che ci sia una sorta di carenza da parte del decisore politico, una presenza, cioè sembra voler dire, come dire, il governo, detta brutale, no? Il governo se ne dovrebbe interessare di più di un'azienda strategica come questa. Il decisore politico ha fatto le sue scelte, che sono state fatte quando è stato oltre quasi 20 anni fa, quando ha deciso di avviare un processo che ha poi portato alla privatizzazione di Telecom. Contrariamente a quello che è avvenuto in Francia e in Germania, il decisore politico, cioè i governi che si sono succeduti in questo paese, non hanno ritenuto che lo Stato mantenesse una quota, come ha mantenuto lo Stato francese, come ha mantenuto lo Stato tedesco, e quindi evidentemente la sua scelta l'ha fatta. Adesso è inutile ritornare su scelte strategiche che sono state fatte, sono state scelte importanti e oggi dobbiamo vivere e gestire le condizioni che sono state create da queste scelte politiche. Così Franco Benabè al microfono del nostro Simone Spezia. Ringrazio l'ingegner Francesco Caio che sorrideva mentre Benabè difendeva l'operato del governo. In realtà, insomma, la domanda di Simone Spezia era del tutto legittima, perché uno può anche aver ceduto e privatizzato completamente Telecom, una privatizzazione che non porterei nelle scuole nelle business school del mondo per gli esiti che ha avuto, però un governo può anche tornare sui suoi passi e decidere che comunque il settore delle telecomunicazioni resta strategico per un paese, quantomeno separare la rete. Insomma, non è che siccome l'abbiamo privatizzata con nocciolini piccoli alla Fiat del tempo, adesso bisogna lasciarla completamente nelle mani di spagnoli, messicani e quant'altro. San Pietroburgo, val bene un G20, ti piace questa parafrasi? Alessandro Merli in collegamento con noi da San Pietroburgo, dove ha seguito per il Sole 24 Ore il G20. Buonasera Alessandro. Buonasera. Allora Alessandro, in conclusione, visto che tutto il giorno che qui a Chernobyl si discute del G20, della Siria, vorrei capire, secondo te questo G20, che era il primo G20 in cui quasi tutti i paesi potevano vantare la fine della crisi e l'inizio di una ripresa economica più o meno debole, più o meno robusta, è stato rovinato dalla questione siriana? Beh, indubbiamente la questione siriana ha spostato molto i riflettori del G20. L'obiettivo della presidenza russa era appunto di fare di questa riunione la prima riunione in cui non c'erano gravi emergenze, urgenze, che fossero la crisi finanziaria globale o che fossero la crisi dell'Eurozona. Naturalmente invece si è parlato molto di Siria, anche se non stava nell'agenda ufficiale. Qualcosa è stato fatto questo piano di azione in cui per una volta c'è un elenco preciso di misure che i paesi si impegnano a prendere. Poi devono essere monitorati dallo stesso G20, quindi bisogna vedere se poi alla fine qualcuno chiamerà i governi di questi paesi a rispettare gli impegni che hanno preso, quindi questo è tutto da dimostrare. Qualche segno di ripresa c'è, l'Eurozona si è un po' spostata dall'epicentro della crisi, vedremo come proseguirà. Il rischio più grosso, come hanno detto diversi partecipanti, è che questa ripresa nessuno la senta, perché per il momento e ancora probabilmente per diversi mesi non produrrà occupazione. Lo stesso dato americano di oggi un po' questa cosa ce la dice. Eh sì, ed è il timore espresso anche da Enrico Letta da San Pietroburgo. Anche lì, anche in Italia c'è il rischio di una ripresa senza occupazione. A me basterebbe con questi numeri un po' di ripresa. però il tema è serissimo, la jobless recovery, la ripresa senza occupazione, significa che tu hai anche dei dati di crescita sul PIL, ma nessuno se ne accorge, la gente comune non se ne accorge, perché il figlio resta disoccupato, il padre in cassa integrazione, perché l'attività produttiva riparte, ma riparte con i livelli occupazionali post crisi. Alessandro Merli, grazie. E quindi l'inviato del Sole 24 ore a San Pietroburgo, da Sebastiano Barisoni un ringraziamento anche a Pietro Lacorte e Davide Cioccia per l'assistenza tecnica qui da Cernobbio, a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi come ogni settimana per l'assistenza in redazione. Focus Economia torna lunedì prossimo dalle 17 in poi. A tutti voi, soprattutto a quelli che lavorano, comunque un buon fine settimana. Radio 24, la passione si sente.